La Cisgiordania in questi giorni è particolarmente interessata da raid militari continui, praticamente giornalieri, e addirittura nello specifico nel campo di Jenin e nella città sono stati impiegati mezzi e risorse che non erano state impiegate da Israele, dall'esercito israeliano negli ultimi 20 anni, quindi capiamo che la situazione sta raggiungendo, diciamo, un punto di non ritorno. Nello specifico il 19 giugno c'è stata un'incursione da parte dell'esercito militare, non solo terrestre ma addirittura anche aerea. Ecco, appunto, non venivano utilizzati caccia e elicotteri Apache dai tempi della seconda intifada. Ricordiamo che Jenin nel 2002 fu infatti purtroppo teatro di un massacro da parte dell'esercito israeliano con un'incursione particolarmente letale. In quella giornata sono stati uccisi, poi alla fine il bilancio delle vittime è salito a 8 persone, perché 2 persone sono morte a causa delle ferite riportate, tra cui purtroppo 2 minori, un ragazzo di 15 anni e una ragazza di 14 anni. In quel giorno però che cosa è successo di particolare? Che anche l'esercito israeliano è stato colto di sorpresa, quindi quella che doveva essere proprio dal punto di vista tecnico-militare un'imboscata ai gruppi di resistenza che in questo momento sono particolarmente attivi ed operativi all'interno del campo di Jenin, si è invece rivelata un'imboscata anche all'esercito israeliano. Sono stati distrutti vari carri armati dell'esercito israeliano, tra cui anche un trooper che, diciamo, era veramente un fiore all'occhiello dell'artiglieria israeliana. Video che abbiamo ricevuto al Palestine Chronicle hanno proprio fatto vedere il momento delle esplosioni, e soprattutto è stato fatto esplodere anche un elicottero Apache. A questo poi sono seguite vari altri eventi, tra cui l'attacco, l'aggressione da parte di 2 palestinesi nell'insediamento coloniale illegale di Eli, e poi la ritorsione da parte dei coloni, che non è avvenuta ovviamente a Jenin, dove appunto la resistenza ha dimostrato di avere una capacità anche di difesa superiore probabilmente a quella che erano le aspettative, ma è avvenuta in questo caso nel villaggio di Turmusaya, che si trova a nord di Ramallah, che tra l'altro ha la peculiarità di avere dei residenti che sono principalmente dei cittadini statunitensi, cioè con passaporto statunitense. Qual è il gioco probabilmente messo in atto da Netanyahu e dal suo governo in questo momento? Invece di affrontare un'operazione militare a tutto campo in Cisgiordania, che come possiamo immaginare avrebbe delle conseguenze non soltanto politiche ma anche militari, perché ripetiamo, i gruppi di resistenza in questo momento stanno dimostrando comunque una capacità di organizzazione superiore alle aspettative, avrebbe anche un costo, quindi militare, anche di vite umane. Sappiamo che l'opinione pubblica israeliana non recepisce bene la perdita di vite umane. Quindi si sta spostando su una siepe armate dei coloni, si stanno spronando operazioni di questo tipo molto efferate, davvero incommentabili per certi versi. Cioè, interi villaggi vengono dati alle fiamme, auto, case, antichi uliveti raccolti. Ieri c'è stata anche una vittima ovviamente in questo villaggio, in una sorta di guerra civile di matrice religiosa e messianica. Questa è l'impressione che se ne ricava. Il governo israeliano manderebbe avanti i coloni, e a tal proposito, queste operazioni hanno suscitato anche il monito, la rabbia del segretario generale dell'ONU. Esatto, del segretario generale dell'ONU, perché ovviamente ci sono state anche vittime minori, dei bambini, quindi c'è stata proprio il monito fortissimo che è arrivato anche dalla nostra Francesca Albanese, UN Special Rapporteur delle Nazioni Unite per i diritti umani in Palestina, che appunto ha scritto su Twitter che la popolazione palestinese deve essere difesa. Ricordiamo, e questo giova ricordarlo, perché molto spesso passa il messaggio che sia una sorta di confronto, no? E quindi i soliti problemi tra Israele e Palestina. Giova ricordare sempre, contestualizzare, e giova ricordare che la Palestina, la Cisgiordania, è territorio palestinese occupato, quindi la presenza dei militari non dovrebbe proprio esserci, e dei militari israeliani. Giova ricordare che appunto i palestinesi hanno, secondo il diritto internazionale, il diritto alla difesa con ogni mezzo, proprio perché sono popolazione occupata, e che Israele in questo caso è l'aggressore. Questa, che può sembrare un'equazione molto banale, è una cosa che va reiterata, perché molto spesso è proprio il contesto che va a mancare quando si parla di Palestina.